Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, direttamente da Udine. Andremo avanti fino alle ore 21:30, ma andiamo con la sigla di questa trasmissione. Ecco, abbiamo ascoltato la sigla iniziale di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica qui da studio di Radio Onde Furlane. Anche oggi ovviamente adesso sono le ore 20, andremo avanti fino alle ore 21:30, giovedì 15 febbraio. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora passiamo all'ascolto di questa band italiana che gravita nell'area di Bologna. Questo è il loro ultimo album, che è uscito sembra alla fine del 2022, e loro sono i Call the Cops, e questo è l'album Manifesto for the Rebirth of the Worldwide Punk Scene. Call the Cops. Is going to happen when that oil and coal runs out in, say, 100 years? When there's 10 billion living on a planet that can support only one? I think we're going to tear each other to shreds. At last, someone with an ounce of fucking brain. Bene, un saluto a tutte e tutte voi che siete in ascolto di questa puntata di Zardins Magnetics. Dirò una cosa che diamo sempre per scontato: la musica che viene proposta il giovedì sera su Radio Onde Furlane e quindi su Zardins Magnetics è costituita 98% da supporti fisici, cioè da CD, da vinili. La maggior parte, insomma, delle volte, quasi mai viene inserita MP3 o altre diavolerie, perché si tratta di musica autoprodotta, quindi Zardins Magnetics, una cosa che diamo sempre per scontata ma che magari qualche volta è meglio dirlo, supporta le autoproduzioni musicali e uno qualcosa che non è solo uno stile di vita ma è una, diciamo, una scelta, una sì, una scelta di campo, diciamo, ecco, quella delle autoproduzioni. Prima cosa. Seconda cosa, Zardins Magnetics è ospite su Radio Onde Furlane, potete ascoltarla chiaramente sempre in diretta FM se abitate in zona Friuli, ma anche in streaming su radioondefurlane.eu se appunto comunque avete una connessione internet. Tuttavia noi non condividiamo niente praticamente della linea editoriale di questa radio, che manda prima della nostra andata in onda gli spot che ha come inserzionista la regione Friuli Venezia Giulia. Non condividiamo niente, come loro, come la radio non manda mai il jingle di Zardins Magnetics, manda altri jingle di altri programmi anche demenziali. Questa cosa per chiarezza la diciamo almeno una volta. Dopodiché vado a così andiamo a vedere quelle che saranno le cose che proponiamo stasera. Avremo senz'altro degli aggiornamenti sul contro i confini in solidarietà con le persone migranti, sicuramente. Dopodiché ci sarà un punto anche per un po' di cultura generale riguardo quei discorsi da bar che riguardano anche la cosiddetta transizione ecologica, ecco, contro i discorsi da bar, cerchiamo di questa guerra disperata. E dopo, intanto che siamo in discorso coi bar, discorso adesso che emerge di contadini, quindi un po' di cultura anche su questo, ecco, vedremo più tardi. Ancora un po' di musica. Lavorato i nostri padri per costruire il vuoto che sentiamo in fondo al cuore. Carne d'ossa che giaceva nel mare sul nastro di trasporto, ma non era... Allora, l'oro bianco. L'oro bianco è il litio, un metallo delle cosiddette, che fa parte delle cosiddette terre rare. Si sente parlare in questi anni ormai e si vede fuori, diciamo, nelle strade, questi monopattini elettrici, le biciclette assistite e le biciclette muscolari sono diventate, quelle che erano biciclette sono diventate muscolari, le altre sono assistite in quanto che hanno appunto queste batterie. Poi ci sono tutto uno svariato mondo di utensili vari, dal bricolage al, diciamo, al giardinaggio, motoseghe e quant'altro, diciamo che si possono ormai di potenza consistente e anche, ma come si dice, che hanno una loro comodità estrema, leggerezza, sì, quindi funzionano tutte con queste stramaledette batterie al litio, no? E diamo per scontato ovviamente tutta l'elettronica e quindi tutte gli smartphone, i tablet e quant'altro. Queste batterie funzionano con il litio. Il litio è un metallo alcalino utilizzato per fabbricare il catodo delle batterie. Non entriamo nella tecnologia propriamente della batteria, ma rimaniamo su come viene estratto questo metallo alcalino. Allora, stiamo e anzi vi proponiamo, leggiamo insieme, insomma ascoltiamo insieme quello che hanno da dire i compagni del Bencivenga, una occupazione di anarchica di non so che quartiere di Roma, i quali hanno realizzato il 16 e il 17 dicembre scorsi una iniziativa dal titolo La mega macchina devastatrice, due giorni contro l'estrattivismo e il mondo che ne ha bisogno. Allora, una serie di interventi, interventi, approfondimenti su questa questione dell'estrattivismo, partire proprio dalle generali, molto generali definizioni, cos'è sto estrattivismo, un po' così di storia. Poi ci sono anche appunto queste estesi esposizioni di come avviene tutta l'estrazione, che adesso vi cercheremo di proporre così in radio per quello che si riesce. Poi c'è una parte anche teorica e non ultima per importanza naturalmente anche un contributo arrivato in ritardo ma comunque che è stato messo nell'opuscolo del compagno Stecco, il quale aveva in passato aveva sì dal carcere naturalmente di Sanremo e che in passato aveva già trattato questa questione su un lungo intervento che mi sembra non avevamo letto qui sulla rivista numero 11 della rivista I giorni e le notti, Il mare tra utopia e potere. Non mi ricordo onestamente adesso se l'avevamo o meno trattato. Comunque, il discorso dell'estrattivismo. Allora, l'estrattivismo è, loro individuano due grossi passaggi. Il primo passaggio, diciamo, la civilizzazione, cioè il passaggio alla società, cioè al modello, al paradigma urbano, quindi si parla della mezzaluna fertile, ecco, del Mesopotamia e gli imperi, ecco, di quella regione, quindi dove emerge appunto la struttura gerarchica della società che prima non c'era e il dotarsi di alcune infrastrutture che sono insomma note, le vie di comunicazione, l'amministrazione diciamo centralizzata e ovviamente forme più o meno antiche, ecco, di militari, ecco, di un esercito, di un qualche sistema di difesa del potere, ecco. Il secondo passaggio fondamentale è quello della rivoluzione industriale del XVIII secolo. Queste strutture che ho elencato adesso, gerarchie e appunto le infrastrutture, quelle statali, e si aggiunge appunto la comparsa delle, sì, prima di tutto l'affermazione dei combustibili fossili, naturalmente, che fanno funzionare le macchine non più appunto legate all'energia animale, ecco, per semplificare, l'affermarsi quindi dei combustibili fossili, cioè carbon fossile, la comparsa delle fabbriche, quindi l'accentramento delle attività produttive in un preciso spazio chiuso, e l'urbanizzazione, cioè l'accentramento anche di quella che appunto si trasferisce, appunto gli abitanti di una certa regione si trasferiscono in massa, ecco, abbandonano le campagne e si trasferiscono con un determinato modello appunto di vita nel centro urbano. Dentro questo passaggio qui si può anche individuare anche un'ulteriore transizione dal carbone al petrolio, che comporta la scomparsa di quelli che erano i lavoratori più agguerriti, ovvero i minatori, quelli che avevano già fatto una parte di lotta e vengono messi da parte, in quanto appunto il nuovo tipo di materia prima li esclude da questo nuovo fondamento dell'economia capitalista, che era il petrolio, che era diventato il petrolio, e il progressivo espandersi ad altri settori produttivi, i quali a loro volta promuovono tutta una serie di altre industrie. L'esempio proprio eclatante è la plastica, che prima del petrolio non esisteva. Col petrolio si comincia appunto a manifestare, a produrre questo materiale, tutta una serie di materiali, trattamenti, industrie di trasformazione, eccetera eccetera eccetera, tra l'altro siccome ho sotto gli occhi anche un libro di cui parleremo dopo con Pasolini, mi viene in mente anche una scena di Petrolio, appunto romanzo intitolato Petrolio, dove il personaggio cammina in mezzo a delle discariche, quelle che erano, è nota la trasformazione di quelle che erano le discariche dalla comparsa dell'umanità, diciamo, fino a in quel momento, agli anni 50, Roma, 60, e con quello che era appunto la discarica, era composta da cartacce e al massimo vetri e ceramica, quindi tutti i materiali che si degradavano in un certo lasso di tempo, e con questa comparsa della plastica, naturalmente la plastica non deperisce e rimane, insomma, nei millenni, nei secoli dei secoli, insomma, ha dei tempi di distruzione un po' più lunghi, e quindi modifica anche sistematicamente l'ambiente. La corsa all'oro che è diventata negli anni presenti, in questi ultimi anni, appunto, la corsa all'oro è quella verso le terre rare. Si chiamano terre rare, ma in realtà sono molto, ma molto diffuse, solo che la concentrazione di queste sostanze è bassissima, cioè necessitano di dispendio di energia, solventi e acqua dolce enormi, primo punto, e secondo punto con enormi quantità di rifiuti che si producono. Allora, si tratta di 17 elementi. Di questi 17 elementi, che magari vi vado fra un po' a elencare, adesso io direi che è già un po' che parlo, quindi lasciamo un po' di buona musica. Siamo sempre su Zardins Magnetics, sono le circa le 8:30 per la precisione, 8:28, e dopo vi verranno annunciati anche i gruppi che abbiamo ascoltato. E stavo dicendo, i metalli rari metalli di transizione e terre rare. Erano 17 le terre rare che ho nominato prima, e i più insomma hanno queste caratteristiche, ecco, che sono, allora, comprendono tutta un'intera riga di quella che è la tavola periodica, se avete presente, se ricordate dalla scuola. Hanno delle caratteristiche, dicevo, che le rende utili a essere inserite, cioè a essere mescolate con altri metalli, appunto, per produrre leghe leggere molto resistenti. E appunto, di quello di cui stavamo parlando stasera, hanno delle proprietà particolari magnetiche conduttive che le rende appunto invece utilizzabili nell'altro settore, appunto quello dell'elettronica e eccetera, o addirittura delle turbine eoliche, che hanno appunto necessitano di questi magneti permanenti. Gli smartphone eccetera hanno gli schermi di cui servono sette di queste terre rare. Solo per uno schermo touch servono 7 di queste terre rare, no, per realizzarlo. E invece i metalli rari sono appunto caratteristicamente l'oro e il platino, ma anche cobalto, uranio, litio, appunto, sono quelli tecnologici. Alcune di queste due categorie si sovrappongono, adesso non stiamo a fare qua tutta la tassonomia, eccetera, ma comunque non è il momento, questo non c'è il luogo. Ecco, volevo appunto puntare più l'attenzione sul fatto che, ecco, questi tre, che sono il cobalto, il nickel, il litio, poi subordinatamente zinco, silicio e cromo. Il cromo, appunto, utilizzato nel nucleare, il silicio, come sappiamo, nel fotovoltaico per realizzare appunto i pannelli. In Friuli, come anche in altre parti d'Italia, ne sappiamo qualcosa di questa questione fotovoltaico. Sono stati realizzati ultimamente tutta una serie di parchi, cosiddetti parchi. E lo zinco, appunto, dicevo prima, per l'eolico. Cobalto, nickel, litio sono quelli, appunto, che sono interessati per la transizione cosiddetta ecologica, no? Che è una transizione energetica, per cui si passa dal funzionamento, cioè dalla, appunto, preponderanza dei combustibili fossili a questi uso di questi metalli per immagazzinare energia elettrica, sostanzialmente. Punto molto importante è che tutti i paesi dell'Unione Europea sono assolutamente dipendenti dalle importazioni e hanno stabilito un obiettivo per il 2030 di arrivare al 10% di estrazione nel territorio Unione Europea. Per questioni economiche, per cui oltre al discorso di queste poche aziende che si interessano dell'estrazione del materiale, c'è anche dei materiali di cui parliamo, c'è anche un discorso di finanziario, per cui subentrano le società di investimento di capitali che tendono a integrare, poi a verticalizzare questa area, diciamo, produttiva, diventa anche finanziaria. La questione in Italia, poi un'altra questione, è che c'erano delle presenza, insomma, in Italia c'è una certa presenza di miniere di estrazione di vari metalli e altre cose, ma alla fine degli 80 si è fatto un bilancio e risultava più conveniente importare questi materiali piuttosto rispetto che aggiornare le strutture che erano diventate obsolete nel frattempo, no? Quindi si sono completamente abbandonate le miniere e si è, appunto, puntato sostanzialmente alla logistica, sì, ai porti, queste robe qua, ma comprare in altri posti e le materie che andavano reperite. E invece negli ultimi anni il processo si è ribaltato e c'è la tendenza a riacquisire, appunto, tutta una serie di competenze geologiche, immagino io, di miniere chiuse e materiali di anche materiali di scarto. Ecco, però adesso il punto centrale che mi ha personalmente più colpito, che però la facciamo breve perché vi consiglio di andarvi a vedere, se vi interessa, appunto, la questione, questo opuscolo, che, appunto, c'è un approfondimento, ecco, molto molto ben calibrato. Insomma, vengono fatte messe in evidenza le cose che servono, ecco, non è ovviamente un libro, ecco, per cultura generale, ci sono le cose base che serve sapere, ecco, e messe anche in posizione critica, cioè in ordine critico, ecco, con un criterio, volevo dire. Ci sono queste questioni di queste salamoie. Allora, il litio si trova in soluzione, si trova con altri cioè in forma minerale, quindi disciolto con altri sali, no? In queste salamoie vere e proprie. Le salamoie vengono pompate dal sottosuolo in bacini artificiali. In questi bacini artificiali, abbastanza estesi, si procede a lavorazioni, ma anche che consistono in filtraggi e sostanzialmente evaporazione, cioè viene fatto evaporare a lungo andare l'acqua dolce e vengono appunto estratte i precipitati, dicendo adesso così tra di noi. Poi ci sono tutta una serie di solventi, di altre lavorazioni che servono a raffinare il minerale. Quindi schematizzando, c'è la localizzazione del giacimento, poi una costruzione di un bacino artificiale che è appunto costituito da questa salamoia che viene pompata in superficie, e poi appunto dal bacino ulteriori vasche dove appunto viene raffinato questo litio, questi minerali del litio. Allora, questione dei rifiuti di lavorazione: per una tonnellata di litio, a una tonnellata di litio corrispondono 115 tonnellate di rifiuti di altri minerali. I quantitativi di acqua dolce sono spaventosi, e siccome poi c'è un particolare in questo momento l'estrazione avviene in due zone praticamente, in Sud America, dove c'è il triangolo del litio che è tra Bolivia, Argentina e Cile, in Sud America e altrove, adesso non lo trovo più, ma mi sembra fosse in Cina, non so che parte della Cina. Sì, sono sempre laghi salati comunque, ecco. Questo utilizzo di grandi quantitativi di acqua dolce porta addirittura al deperimento dell'acqua dolce di tutta la regione, perché bisogna far arrivare tutta l'acqua dolce in queste salamoie, dove appunto bisogna lavare questi minerali. Adesso dico lavare, ma insomma, far asciugarlo praticamente. Altro sistema di una cosa importante: fino al 2018 praticamente tutte le analisi e le ricerche a livello ufficiale sul ciclo di produzione hanno praticamente azzerato l'impatto della produzione sull'acqua dolce, cioè non l'hanno presa in conto, quindi praticamente risultava sempre una produzione ecologicamente sostenibile, veniva fuori una bella figura, ecco, da questo ciclo di produzione, e se non che appunto fino al 2018 nessuno ha tenuto conto di questo utilizzo dell'acqua dolce, che appunto, mettendo anche l'acqua dolce, diventa totalmente sballata la cosa. Altro sistema per estrarre il litio c'è anche l'elettrolisi e altri processi simili che si stanno appunto sviluppando con tecnologia così che viene chiamata di estrazione diretta, che sono meno impattanti a detta di questi che la estraggono, ovviamente, esempio il CNR in Italia. Però sembrerebbe addirittura che anche qui l'acqua dolce necessaria sia mostruosamente, addirittura superiore rispetto all'evaporazione. Ecco, così. Nell'intervento qui c'è anche una parte sulla situazione chiaramente nel Lazio, con analisi anche specifiche di una ditta di questi accaparratori, appunto. Però appunto io concluderei con il discorso del leggo direttamente uno degli ultimi paragrafi. Del resto, capire le dinamiche della mega macchina, appunto, di questo processo di produzione del litio che abbiamo preso in esame, capirne le dinamiche semplificando la complessità può scardinare quell'aura di Moloch invincibile. Perché se da un lato è vero che il potere è anche una questione relazionale e che l'economia è ormai in gran parte immateriale, l'impero della tecnica ha bisogno vitale di una rete interdipendente, di supporti più che concreti. Dall'addestramento e la collaborazione dei tecnici alle infrastrutture di trasporto dell'energia, della comunicazione e della logistica, e via via scomponendo fino all'essenza linfatica dei cavi e dei più infinitesimali dei chip. Per questo ci interessa così tanto ciò che il dominio ritiene strategico per la sua economia, per la sua supremazia militare, per la sua trasformazione sociale in atto, a cui ha dato il nome di digitalizzazione. Comprendere quali siano i suoi bisogni primari e come se li procura è un buon punto di partenza per chi anela staccargli la spina. Ecco, appunto, non è che più sappiamo, più dobbiamo gettare il manico drio della maniera, quindi buttare via tutto, modo di dire di la tisana. Cioè, è che buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, no? E il discorso è: più sappiamo, più abbiamo un senso della realtà, percezione di qual è della realtà, e come ci prendono in giro questo discorso della transizione ecologica, e quali sono, ecco, possono essere i punti di applicazione di magari di un atteggiamento di attacco o di lotta, ecco, semplicemente contro questa, quello che è appunto una vera minaccia, una minaccia di distruzione della vita. Sto scaricando lo slogan utopia, mentre per la strada la gente Sì, allora il appunto il tutto il ragionamento sull'estrattivismo è direttamente collegato con il discorso del colonialismo, perché presuppone la colonizzazione dei territori e delle popolazioni che li abitano, e appunto come si diceva prima, della un esito insomma di questa mega macchina è la distruzione della vita. Allora, di fronte a questa così annichilimento generale, non bisogna buttare il manego dritto della maniera, cioè dietro la mannaia, ma al contrario sapere come usare la maniera, appunto la mannaia. E a questo proposito, allora, io ho letto un articolo che si intitola L'impensabile rivolta degli schiavi, di Zubair Ali Khan, un articolo che è comparso lo scorso 8 febbraio sul blog Invicta Palestina, che parla proprio di questa dell'importanza delle rivolte degli schiavi e dei nativi, che insomma schiavi e nativi non sono concetti solamente, diciamo, antropologici, possiamo dire, ma sono concetti che ci riguardano direttamente, in quanto ci sono forme di schiavitù ed esistono i nativi in lotta contro gli stati. E questo articolo parte dal discorso della situazione in Palestina, quindi parte dal 7 ottobre, analizza ciò che è successo e poi analizza la strumentalizzazione, la imperializzazione, diciamo, dei discorsi su ciò che è successo. Parla anche del genocidio, ma parla soprattutto di questa, della forza, diciamo, di questa rivolta dei nativi palestinesi contro lo Stato di Israele, il dominio dello Stato di Israele, e si rifà anche a altre, appunto, rivolte di schiavi che sono state considerate impensabili, appunto, dai colonizzatori, dai dominatori, dagli sfruttatori. E vi leggo alcune parti di questo articolo, che poi potete trovare appunto sul blog di Invicta Palestina. Allora, ci dice l'autore: coloro che affermano che Israele era a conoscenza dei piani del 7 ottobre stanno riconfezionando un vecchio luogo comune coloniale, secondo cui i nativi sono troppo docili, troppo sottomessi, troppo codardi e troppo inferiori per ribellarsi contro i loro oppressori. Invece, ci dice l'autore Zubair Ali Khan, il 7 ottobre 2023 i palestinesi hanno lanciato la più grande operazione decoloniale nella storia della Palestina. Cioè, hanno reciso il cordone ombelicale dell'inespugnabilità, della sicurezza e del dominio sacrosanto, vitale per tutti i progetti coloniali. Però cosa è successo? Che immediatamente scribi e politici imperiali, coloni e amministratori coloniali, conservatori e liberali, e soprattutto i liberali, i democratici, si sono messi al lavoro. Il loro compito era duplice: garantire che il mondo vedesse i nativi come orde selvagge, barbari, animali, la quintessenza del male. E qui i liberali e i democratici hanno dimenticato velocemente la loro correttezza politica e si sono affrettati a condannare. E contemporaneamente, secondo compito, ristabilire il dominio. Questo secondo compito ha permeato la mente di molti, anche di quelli potenzialmente ben intenzionati. Questo ripristino dell'impero si è manifestato in diversi modi. I palestinesi non avrebbero potuto evadere da soli, non sarebbero riusciti a penetrare la cupola di ferro. I sistemi di sicurezza israeliani sono troppo avanzati per essere superati o disarmati. Quindi Israele ha lasciato che lo facessero. Senza perdere un colpo, un'operazione senza precedenti, come quella appunto del 7 ottobre, che ha mandato in frantumi il concetto di invincibilità imperiale di Israele, è stata riformulata come uno strumento imperiale. E insomma, ci dice Zubair Ali Khan, alla base di tutto ciò e a costituire la ragion d'essere collettiva di queste teorie c'è l'impensabilità della rivolta degli schiavi e dei nativi. Questo concetto di impensabilità della rivolta degli schiavi è un concetto che ha introdotto Michel Rolfe Trouillot, che era un rivoluzionario haitiano, per spiegare le risposte, i silenzi e il silenzio dell'impero occidentale sulla rivoluzione haitiana. Allora, la rivoluzione haitiana è avvenuta, si chiamava Santo Domingo, poi è stato chiamato dai, hanno voluto appunto i rivoluzionari indigeni, hanno voluto che ripristinare il nome Haiti, e è avvenuta nel 1791, quindi diciamo nel contesto della rivoluzione francese. Santo Domingo era occupata e sfruttata brutalmente dalla Francia, ma non solo dalla Francia, perché poi c'era implicata la Spagna, l'Inghilterra, eccetera, e anche la Polonia. E che cosa succede? Che c'era questa economia di piantagione, caffè e zucchero di canna, e a un certo punto però c'erano appunto i neri in proporzione, che venivano, commercio triangolare, quindi venivano insomma portati dall'Africa, deportati dall'Africa, ed erano in numero di 10 a 1, cioè 10 lavoratori schiavizzati neri versus un bastardo colono sfruttatore. Quindi i coloni, dicendola con la eleganza che mi contraddistingue, si cagavano addosso da un certo punto di vista, perché il loro numero era veramente ridicolo rispetto a... Però proprio per questo il sistema, diciamo, di oppressione e di repressione di qualsiasi forma di vitale di queste persone schiavizzate era feroce. Se non che c'erano anche i creoli, quindi queste persone insomma che nella scala sociale erano un po' più in alto, però comunque subivano sfruttamento e discriminazione. I creoli, quindi nati da perché i padroni appunto utilizzavano anche i corpi delle donne anche per questioni sessuali, e quindi nascevano questi bambini che poi crescevano creoli. E insomma, comunque in questa situazione, insomma, nel 1791, da una rivolta, da un'insurrezione così per l'esasperazione delle condizioni di vita, pian piano, cioè pian piano, nel giro di breve veramente, esplode una vera e propria rivoluzione. Neri e creoli si alleano, neri e mulatti si alleano, e insomma praticamente fanno questa grandissima, questa rivoluzione contro l'economia di piantagione, fanno fuori tutti quelli che devono far fuori, riescono insomma a tener duro, e nel 1804 ottengono l'indipendenza di questa colonia, e quindi la chiamano Haiti, e ci sarà un governo, per così dire, non bianco, ma un governo composto da ex prigionieri, ex schiavi. Bon, poi le cose vanno anche a patras, perché comunque la Francia, oltre al fatto che c'è anche lì la guerra è pesante, però riescono ugualmente, nonostante che abbiano contro di loro, cioè praticamente più stati super armati fino ai denti, però riescono ad avere la meglio anche militarmente. Poi dopo vengono indebitati, perché gli stati si vendicano in questa maniera qua, ma questa cosa insomma è una cosa importante. E allo scoppio, ci dice, ritorno all'articolo, allo scoppio di ci dice Zubeir Ali Khan, allo scoppio della rivoluzione haitiana, la reazione più comune in Francia, Inghilterra, Spagna e Stati Uniti fu l'incredulità. La notizia era falsa. I fatti, proprio come quelli dell'alluvione di Al-Aqsa, erano troppo improbabili. In ogni caso, i fatti dovevano essere falsi, perché i neri, come i palestinesi, erano bestie senza cervello, selvaggi costretti alla docilità, pigri, disorganizzati e inferiori. Erano assolutamente incapaci di ideare un'operazione del genere, tantomeno di organizzarsi e realizzarla. Libertà negata! Il problema, tuttavia, era proprio che l'Occidente stava reagendo a fatto avvenuto ed escogitando spiegazioni mentre i neri e i palestinesi mettevano in atto l'impensabile, neutralizzavano attivamente le forze coloniali e rivendicavano le terre. Lentamente e a malincuore, la realtà delle operazioni si fece strada. La notizia di spietate orde nere che massacravano i bianchi raggiunse l'Europa e i sionisti proclamarono nuovamente gli orrori di San Domingo. La notizia quindi dovette essere razionalizzata in un modo diverso. I fatti evidenti erano, sono ancora impensabili. Pertanto la rivoluzione fu una sfortunata ripercussione degli errori di calcolo dei coltivatori, viene citato da documenti che riguardano appunto la rivoluzione di Haiti. L'alluvione di Al-Aqsa fu il risultato di una, sempre virgolettato, cascata di passi falsi durata anni di Israele. Ancora virgolettato, non mirava a un cambiamento rivoluzionario, non mirava alla, decolonizzazione. Non, sempre virgolettato, non è stata sostenuta dalla maggioranza della popolazione schiava. È stato Hamas che ha agito da solo, i palestinesi non li hanno appoggiati. È dovuto ad agitatori esterni, ha istigato l'Iran. È stata la conseguenza di varie cospirazioni conniventi da parte di non schiavi. Ci sono state fughe di notizie all'interno dell'establishment della sicurezza israeliano. Ad Haiti furono gli inglesi, i realisti e i mulatti. In Palestina l'Iran è stato la mente e dietro di loro Russia e Cina. Ecco qua, e insomma, quindi in questo, continuando in questa analisi, diciamo, di questo parallelismo, l'obiettivo però di dell'autore di questo articolo non è di fare semplicemente un'analisi, ma di dare forza invece a questa rivolta degli schiavi e dei nativi e ricordare che questa rivolta è possibile. Non è vero che non esiste impero invincibile, nemmeno quello israeliano, nemmeno quello, nessun impero invincibile. E appunto ci dice ancora: l'imperialismo si fonda sull'idea stessa, sulla centralità e supremazia dell'io, su coloro che attendono la conquista e la civilizzazione. La primarietà dell'impero poggia sulla secondarietà dell'altro. La superiorità imperiale si basa sull'inferiorità nativa. Eppure, paradossalmente, questa secondarietà e inferiorità sono indispensabili alla primarietà e superiorità dell'europeo e dell'impero. Eventi come la rivoluzione haitiana e l'alluvione di Al-Aqsa del 7 ottobre 2023 invertono, ribaltano o frantumano completamente queste gerarchie. Quindi, per il nativo, questa violenza è una forza purificatrice, lo libera dal suo complesso di inferiorità, dalla sua disperazione e inerzia, lo rende impavido e ripristina il rispetto di sé. Per far ciò, se il nativo si libera dal suo complesso di inferiorità, non è più inferiore. Se non è più inferiore, il colonizzatore non è superiore. Se il colonizzatore non è superiore, allora l'idea di impero viene compromessa, gli idoli crollano e l'imperialismo cade. Pertanto, scrive Fanon, è proprio nel momento in cui egli, il nativo, realizza la sua umanità che comincia ad affilare le armi con cui si assicurerà la vittoria. La funzione delle teorie razionalizzatrici che chiariscono l'impensabile diventa allora evidente. È la preservazione del dominio, della gerarchia, del futuro dei coloni, del sé imperiale. E un inciso mio, dispiace che persone come Edith Brooke sostengano che ciò che sta facendo, cioè fa piacere che condannino il genocidio, ma dispiace che non abbiano la lucidità per comprendere il senso di questo genocidio, in quanto una persona come Edith Brooke sostiene che Netanyahu, con quello che sta facendo, sta distruggendo il concetto di Stato di Israele, il bel concetto di Stato di Israele. E continuando, la minaccia posta da qualsiasi atto di resistenza indigeno in qualsiasi parte del mondo colonizzato non è semplicemente una minaccia materiale per il suo obiettivo diretto o per la signoria locale, ma un flagello esistenziale contro l'impero e l'imperialismo nel suo complesso. Nelle parole sempre pertinenti di Ghassan Kanafani, l'imperialismo ha posto il suo corpo nel mondo, la testa nell'Asia orientale, il cuore nel Medio Oriente e le sue arterie raggiungono l'Africa e l'America Latina. Ovunque lo colpisci, lo danneggi e servi la rivoluzione mondiale. E conclude, e concludo anch'io, Zubair Ali Khan sul senso di questo suo scritto. Lui dice: l'idea per questo pezzo mi è venuta per la prima volta il 7 ottobre. Da allora ho pensato di scriverlo, ma mi sono trovato bloccato dalla devastazione del genocidio. Come posso scrivere di qualcosa oltre al genocidio? Man mano che i giorni si trasformavano in mesi, pensare, parlare o scrivere di qualsiasi altra cosa sembrava sempre più inappropriato, persino immorale. Dopo un dibattito interiore senza fine, mi sono ricordato dello schema della storia coloniale. E lo schema della storia coloniale è questo. Dopo un atto di resistenza dei nativi, arriva la brutalità più feroce e sfrenata della colonia di coloni. È progettato per insegnare una lezione, per far dimenticare al nativo i suoi trionfi, per quanto piccoli, in modo da inghiottirlo nel fuoco e affogarlo nel sangue fino a consumarlo. Non si può permettere che questa cancellazione e conquista rimangano incontrastate. E quindi questa è la ragione per cui lui ha scritto questo articolo e dice: mentre le bombe cadono su Gaza, cercando di cancellare la memoria dei palestinesi della loro vittoria, di seppellire sotto le macerie il loro barlume di liberazione e di cancellare dal mondo la memoria della loro presenza, non dobbiamo dimenticare. Il 7 ottobre la Palestina ha rovesciato l'ordine mondiale, imperiale, e oggi o domani, tra 10 o 100 anni, sarà libera. Allora, volevo, all'inizio abbiamo detto che parleremo anche delle frontiere, in realtà magari approfondiamo la prossima volta, insomma, comunque volevo sì presentare un'iniziativa che ci sarà domenica 18 qui a Udine allo spazio autogestito di Via dei Rubeis, e cioè una Tattoo Circus e benefit per appunto per i compagni e le compagne che sono stati condannati in appello per un totale di 123 anni per una manifestazione, ne abbiamo parlato la scorsa Zarris Magnetics, del 7 maggio del 2016, una giornata di lotta contro al Brennero, appunto, contro l'ipotesi del blocco di quella frontiera da parte dello Stato austriaco con la complicità dello Stato italiano. E appunto ci sarà questa Tattoo Circus organizzata dal laboratorio Trans Femme Queer di Udine. E allora praticamente la giornata tutta la domenica sarà impegnata, verso le 10:30 ci sarà un aggiornamento sul processo, perché il 5 di marzo ci sarà l'udienza di Cassazione. E appunto, quindi 10:30 aggiornamento sul processo e discussione a partire da quelle lotte e sui suoi legami con il presente. Poi ci sarà un pranzo sociale vegan. Dalle 16 un DJ set con Erika e Urania Impoverita. Alle 17:30 un aperitivo vegan e tutto il giorno tatuaggi con Lady Electric da Ljubljana e Krina. E poi ci sarà un angolo tarocchi con Coco e distro, banchetti informativi, eccetera. E, sì, se volete così dettagli su tutto quanto, anche sulle modalità per poter fare i tattoo, nel senso che in alcuni casi bisogna avvisare la tatuatrice, in altri casi invece si può anche improvvisare, potete andare nel blog della laboratoria Trans Femme Queer di Udine. E io dico al volo anche un'altra cosa, quindi questo a Udine domenica 18, però annuncio anche due iniziative che ci saranno a Trieste domani. Venerdì 16 febbraio alle ore 17 in piazza Goldoni ci sarà un presidio di boicottaggio della McDonald's, marchio della vergogna, che sostiene l'esercito sionista del genocidio a Gaza, organizzato dal coordinamento per la Palestina di Trieste. E sabato 17 alle ore 12 in via Fabio Severo 7 di fronte alla sede della RAI ci sarà un presidio di protesta contro la RAI, appunto stop al genocidio. Quindi tutte le persone che hanno la possibilità di partecipare, insomma, sono invitate a farlo. E io per stasera vi saluto. Bene, sfumo questa band che sono gli Straight Opposition, ma anche volevo un po' presentare, anzi cercare di presentare le band che abbiamo ascoltato prima tra i vari interventi. È una cosa abbastanza difficile. Vabbè, in primo all'inizio avevamo ascoltato i Kalashnikov, poi anche i Carlos Dunga, ma io ho detto che è una cosa un po' difficile, perché noi stiamo così ascoltando in sottofondo durante tutti gli interventi, ma anche tuttora sta andando questo CD, questo album compilation, che anzi è un doppio CD per un totale di 60 band, tutte italiane, e questo diciamo lavoro era uscito una decina di anni fa, mi sembra è uscito anche un secondo volume, grazie alla Punk for Free, che è un blog che si trova tuttora in rete, che si autodefinisce punk poser hardcore, dove ognuno può inserirsi all'interno, mettere dei brani, comunicare concerti, iniziative nell'ambito del punk hardcore a livello nazionale. Quindi, come ho detto, abbiamo ascoltato, noi adesso siamo all'ascolto della 28ª band. Io dovrei andare qui a contare le canzoni, i brani, perché non c'è un numero. Comunque sono, come ho detto, due ICD. Allora, sempre Zardins Magnetics, cerchiamo così, abbiamo messo nella promozione, nell'autopromozione che facciamo, pseudomito contadino e francescanesimo che destabilizza. Vado a leggere da un'intervista realizzata nel giugno 2000, dicembre 2001 a Roma da Francesca Cadel a Antonio Toni Negri. Il mio discorso parte dal poema su Valle Giulia, cioè Pasolini contro gli studenti e contro il 68. Vorrei insistere da un lato su quelli che erano i precedenti del populismo pasoliniano, da un lato, dall'altro mettere in luce l'autocritica, che forse si sviluppa in questo testo attorno a due punti fondamentali. Il primo è una strana categoria di rivoluzione contro guerra civile che Pasolini svolge in maniera assai ampia e che a me non sembra potersi sostenere, però è una categoria interessante, si può sviscerare da molti punti di vista. L'altro concetto è quello di crisi, la mutazione, la metamorfosi antropologica dei soggetti. Dal mio punto di vista, Pasolini opera attraverso ibridazioni incongrue fra una valutazione della realtà spesso corretta e un'utopia profonda, nella fattispecie una sorta di francescanesimo, che spiazza continuamente la valutazione realistica e la destabilizza. Perciò Pasolini alla fine non morde né la realtà del PC né la realtà del movimento, però combina in maniera strana, a volte in maniera accattivante, a volte in maniera distorta, queste tensioni, con una conclusione, una visione disperata e allucinata della rinascita del fascismo e quindi, dal mio punto di vista, autoriconoscimento del fallimento dell'analisi. Pasolini è sconfitto e si inventa una tendenza della società italiana verso il fascismo, meglio, verso un postmoderno che però lui chiama fascismo e sente in termini completamente negativi. Per lui il postmoderno è Salò. A un certo punto Pasolini vede non più semplicemente un meccanismo di distruzione, ma anche un meccanismo di corruzione. Ma in che senso vadano o siano andate sia la distruzione che la corruzione non è chiaro. Al populismo iniziale, che viene negato da questa macchina orribile di potere, consegue allora un'altra cosa, che è l'incapacità di capire il neocapitalismo, chiamalo così, o il postmoderno o le anticipazioni di postmoderno dentro le quali ci si muoveva. Pasolini vede solo fascismo. Io credo che l'elemento, Toni Negri, io credo che l'elemento sul quale bisognerebbe discutere è questo: che anticipazioni ci sono in Pasolini? Io non lo so, e mi verrebbe da rispondere in maniera negativa e sbrigativa. Capisci? Ho l'impressione che Pasolini non colga, non possa percepire le novità produttive, umane, etiche della formidabile mutazione degli anni 60. Insomma, dal mio punto di vista, dentro questa trasformazione antropologica non c'è davvero solo del negativo, dice Toni Negri tra il 2000 e il 2001. Il problema è altro e grosso. È la sua idealizzazione della classe operaia come classe o comunità francescana. Questo è un errore di prim'ordine, oltretutto una posizione anticomunista. Lui, invece, cercava di proporre questa sua utopia come linea del Partito Comunista. Non stava né in cielo né in terra. Oltretutto, dimmi tu quale piccolo soggetto, pure marginale, di classe operaria in Italia avrebbe mai potuto avere posizioni di questo genere, neppure in Friuli, ci mancherebbe altro. In 30 anni proprio i suoi friulani sono diventati il popolo più ricco del mondo, letteralmente, altro che francescanesimo. Quello che è completamente assurdo in questa utopia pasoliniana è che egli racconta tante belle cose, ma sempre in termini sballati, allora e talora anche deliranti. Pasolini si illude che esista una classe operaia pauperista, ma invece la classe operaia vuole ricchezza, o comunque ha delle pulsioni a prendere la ricchezza, a riappropriarsene per quello che è forma merce o egemonia intellettuale, eccetera eccetera. Toni Negri, torno sempre a quelle che sono le nostre terre, alla rivoluzione antropologica che ho vissuto nel Veneto, che poi è il nord-est italiano tutto intero, quelle regioni lì. Un po' più a nord ha vissuto Pasolini, un po' più a sud ho vissuto io, la differenza non è di 100 chilometri. La guerra, il dopoguerra, la prima apparizione dell'industria, la fine dell'emigrazione, perché fino agli anni 60 la gente se ne andava a lavorare all'estero, quando andava bene in maniera stagionale. Poi i 10-15 anni di incredibili cambiamenti, di stravolgimenti feroci, di lotte di lavoro indefesso, che arrivano fino al 75-76. Dopo, alla fine degli anni 70, comincia a stabilizzarsi, con un nuovo modo di produrre, una nuova geografia sociale. Praticamente quella che prima era una campagna indefinita diventa un continuo industriale cittadino. Il Veneto diventa un'enorme metropoli, eccetera, eccetera. Non so, Toni Negri, non so se ve l'ho mai raccontata questa storia di La dolce vita, perché la racconto a tutti. Al principio degli anni 60, quando esce La dolce vita di Fellini, viene distribuito dappertutto, ha un grande successo e arriva anche a Trebaseleghe, è un paese di 15-20.000 persone tra Padova, Treviso e Vicenza, scusate. Uno di questi grossi paesi che già allora stavano sviluppandosi in maniera molto forte, con piccole industrie di ogni genere. Il film doveva passare nella sala parrocchiale, gestita però da un gestore commerciale laico. Il prete, quando sente parlare della dolce vita, blocca il film. Fino al giorno prima nessuno avrebbe mai protestato. Però con La dolce vita è differente. Questi contadini che stanno trasformandosi in operai vogliono vederla. Quindi c'è una grande protesta che finisce in una domenica di protesta. Chiamano un avvocato anticlericale a parlare. A me dicono, lavoravo allora per il PSI, guarda, vai a vedere cosa sta succedendo. Io vado, era una ventina di chilometri da Padova. Mi trovo con 20.000 persone di notte, nel buio completo, davanti alla chiesa di Trebaseleghe. Questa chiesa è in mezzo a un grande prato e non c'è null'altro se non un camion in mezzo con una piccola luce e un tizio che urla contro il prete i peggiori insulti. Di tanto in tanto una voce che protesta dal buio contro di lui. Satana, gridava contro l'avvocato. Poi, alla fine, tutto sparisce nel nulla, tutti se ne vanno nel buio, nel nulla. Tuttavia, dopo 2 o 3 mesi, il cinema è stato comperato da un laico e almeno questa libertà i miei contadini operai l'hanno avuta e il progresso è continuato. Ma tu non puoi immaginare cos'era il regime clericale qual era il tipo di repressione che esisteva in queste zone. Repressione clericale, politica, sociale, dal punto di vista economico, queste erano zone di mezzadria. Il contadino, eccetera, eccetera. Ma tutto si è modificato negli ultimi anni 60. Quanta bella gente, tu la conosci meglio e come me. Come è meglio di me. Mi ricordo per esempio gli anni 60 a Padova, dove arrivavano queste contadine industrializzate. Erano le più belle donne del mondo. Quando parlo di metamorfosi del corpo, parlo di questo incivilimento del corpo, del fatto che fare l'amore era diventato infinitamente più bello che farlo prima. Leggo quello che è scritto. Capisci, prima il principio di piacere non esisteva. Questa è trasformazione radicale dei corpi, e tutto questo noi abbiamo avuto la fortuna, la disgrazia di vederlo veramente accadere in 20 anni. Pasolini l'ha vissuto tutto questo, anche se da Roma, era radicato qui da noi, ed il radicamento ce lo si porta dietro, implacabile. Su questo si è poi inserito il politico pasoliniano. Boh. Ecco, non faccio commenti di nessun genere. Secondo me i compagni colpiti dalla repressione rimangono compagni. Dopo il percorso di ognuno, sì, risponde quell'uno. Toni Negri scomparso già, insomma, all'inizio di quest'anno, non serve fare altri, insomma, aggiungere altro, non mi sento di aggiungere altro. Voglio andare avanti perché mi è venuto in mente un altro intervento del qua eravamo nel 2000, invece questo è un intervento che, se ce la faccio a leggere nei gigoccioli di questa puntata, era del 79, mi sembra del 78 era uscito questo film di Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli. Io di certo personalmente alcuni film di Ermanno Olmi li ho apprezzati, e L'albero degli zoccoli non sono riuscito, cioè mi ha talmente annoiato, non sono mai riuscito a sostenerlo. L'hanno dato anche poche settimane fa, mi sembra, non mi ricordo più perché, alla Rai talvolta lo danno. È un film che parla della situazione specifica di una società contadina del zona di Bergamo, nel non so bene in che collocato, penso fine dell'Ottocento. Allora, risponde alcune domande di questo tizio che ha fatto un saggio su questo film nel 79, si chiama Dell'Acqua. Risponde Elvio Facchinelli. Chissà già chi è, bene, adesso non riusciamo a dire altro di chi era Elvio Facchinelli. Diciamo che si è occupato di tante cose, era laureato in medicina e ha praticato, insomma, si è occupato di pedagogia, eccetera, ecco, dai, psicanalisi. Studioso. Allora, provenienza contadina di Facchinelli, tra l'altro di zone di isole linguistiche delle montagne veronesi, Luserna, 1300 metri d'altezza. Lei di origini familiari contadine, appunto, questa scomparsa, dice, ho seguito, ho notato dentro di me un fenomeno, quello della scomparsa del film, come se non mi avesse fatto nessuna impressione. Questa scomparsa mi è sembrata un po' strana proprio perché nel film ci sono dei temi con cui potevo essere direttamente a contatto. Alcune istituzioni di cui si parla nel film di Olmi io le ho vissute, ad esempio il Filò. Tutti sono lì che parlano, io ho partecipato da bambino ai Filò. Vivevo a Luserna, un paese di 1300 metri d'altezza. La sera d'inverno, dopo aver mangiato, non c'era altro che fare il filò. Ora, Da un lato ho rivissuto nel film questo di ritrovarsi insieme questi scherzotti, però nell'insieme ho sentito anche una certa distanza. Ho come l'impressione che lì nel film la descrizione sia troppo rotonda, troppo piena, troppo compatta, invece il filò per me era un'altra cosa. Mi sono trovato di fronte a una rappresentazione armonica, completa, che non corrisponde alla mia esperienza, non solo del filò, ma dell'intera vita contadina. È come se Olmi ci avesse messo un eccesso di senso e di disegno per completare un quadro, finendo in realtà col dare una situazione diversa. Altra domanda sul tema della memoria. Io immagino che Olmi sia sincero, in parte ho ritrovato degli elementi personali, ma ho trovato anche un eccesso, come dire, di armonia, e alla lunga credo che in questa armonia vada ricercato il motivo per cui il film non mi è interessato molto. Mi viene in mente un esempio: Mario Cioni, il personaggio che Benigni faceva alla televisione, tutt'altra cosa evidentemente, ma lì in Cioni io ci ho ritrovato molto di più il tipo di situazione originaria mia, anche se era di fatto del tutto diversa, perché per esempio il televisore nella stalla è qualcosa che rientra non solo nella condizione dei contadini di adesso, ma anche in quella dei contadini di allora, nel senso che anche allora i contadini erano disturbati e interferiti da tantissime cose. Insomma, voglio dire che nella mia esperienza non c'è quella sorta di totalità chiusa che Olmi invece ha voluto rappresentare, ed è questo secondo me il punto in cui cade l'interesse. Nessuno può identificarsi, nessuno, anche se c'è stato dentro, può riconoscersi in quella specie di situazione. Si finisce per vederla come una bella oleografia. Altra domanda sulla... sui toni, insomma, sui toni di questa rappresentazione. Ora, a me sembra che nell'infanzia di un bambino, perché dice, per esempio, la morte del maiale vista come un'enorme festa e via dicendo, dice Facchinelli. Ora, a me sembra che nell'infanzia di un bambino in campagna, come anch'io sono stato, ci sono contemporaneamente altrettanto chiari, altrettanto evidenti, altri aspetti, chiamiamoli se si vuole storici, extra contadini, che secondo me ci sono sempre stati. Questi aspetti il film di Olmi li elide, li elimina semplicemente. Entra nel discorso la sensibilità, diciamo, cattolica o cristiana, che dir si voglia. Non c'è dubbio che c'è una sensibilità di questo tipo. Infatti nel film si presenta un punto centrale di quella che si potrebbe chiamare l'educazione cattolica, vale a dire la questione dell'inibizione, del controllo della sensibilità. Ma l'inibizione è già data, è qualcosa che c'è, senza alcun problema né interno né esterno. Il momento più esterno si verifica nella situazione del bambino che viene dato perché la coppia dei novelli sposi se lo porti a casa. Ma anche tutta la situazione di ordine, per così dire, sentimentale, che in fondo è anche quella che piace di più per la sua castità, anche questa viene data in modo che non si scorge mai, né si intuisce tutto quello che c'è dentro di difficoltà, di violenza, di scacco, di sconfitta. Da questo punto di vista non si può neanche dire cattolico in senso stretto, perché i cattolici queste cose le sanno, sanno che si fa fatica, che bisogna inculcare, che bisogna difendersi dal maligno, no? Ma qui non c'è tutto questo, la storia funziona come una cosa già regolata. Vabbè, insomma, il discorso della violenza, siamo negli anni 70. Se l'inibizione non ha più neppure un qualsiasi rapporto con la violenza istituzionale, se rimane come qualcosa in sé, come castità, inevitabilmente suscita l'idea che questo sia il modo di evitare la violenza. In qualche modo il film dice o suggerisce che se noi restaurassimo certe inibizioni, una certa semplicità, riusciremmo anche a evitare la violenza di cui siamo vittime. Basta, insomma, questo era Facchinelli. Anche qua non ci sono commenti. Unica cosa che però tenevo ad aggiungere è che è paradossale che tanti anni sono passati dal 2000, quasi un quarto di secolo, e Toni Negri tirasse fuori il francescanesimo, che poi paradossalmente, voglio dire, è diventata la sua proposta. Quella che fu la proposta di Negri e dei suoi seguaci era questo discorso, sì, di conquiste, di affermazione, diciamo, di autovalorizzazione, eccetera, eccetera. Insomma, tutta una serie di, anche volendo entrare adesso, errori, no? Anche dal punto di vista nostro, mio, però paradossale che accusasse Pasolini di francescanesimo, che poi è stato cioè è stato il suo paradigma, la sua proposta è stata questa qua, poi nei libri, nei libri della sua, diciamo, ultima produzione, ecco. Invece su Facchinelli mi viene in mente tutte abbiamo parlato tempo fa in altre puntate Zardins, a proposito di Montaldi e la sua analisi del l'analisi critica della figura del contadino, no? del lavoratore della terra, e connotato appunto, intrecciato, diciamo, nella storicità, non è esente da storicità, perché è un pregiudizio questo, diciamo, di una volgarizzazione marxista, dell'approccio marxista, di dire appunto, a differenza dell'operaio, il contadino è in un eterno presente, non reagisce alle sollecitazioni, diciamo, sociali, altro che non reagisce, appunto, le conosce bene, anzi, le sollecitazioni sociali, e è capace di elaborarle, anche la figura, diciamo, il personaggio del contadino, e niente, appunto, c'è questo pseudo mito, anche questo è che corre appunto nelle banalizzazioni di queste settimane sul discorso delle proteste contadine, pseudo mito nel senso, si portati a pensare anche sempre a questa, a banalizzare questa armonia, questo mondo fatto di armonia, appunto di linearità, no? dell'attività su cui, diciamo, sono protagonisti questi che protestano, e gli si dà ragione, ma è una semplificazione, è anche un effetto di propaganda, no? Se vogliamo. E mi è colpito appunto questo discorso della morte del maiale, e come ancora siamo nel 2024, come ancora questa roba che c'è Sant'Antonio a gennaio, 24 gennaio, una roba così, e c'è ancora, si ammazza il maiale, si mangia il maiale, eccetera eccetera, e questa roba qua esiste, no? Anche ancora, e non è, sì, e non è, non so, è anche questo è un vissuto, non so come dire, non è una roba di trattori lucidi lì che vanno in sfilata per le vie, sì, per le strade, insomma, delle città. Vabbè, siamo oltre la nostra soglia, vi saluto, ci sentiamo con Zardins Magnetics giovedì prossimo, senz'altro, e lascio la parola alla regia. Bene, tengo in sottofondo questa band che sono La Maledizione del Benessere, sempre estrapolati dalla compilation che ho presentato prima, Punk for Free, uscita una decina di anni fa, all'interno 60 le band, comunque tutte band contemporanee, volevo specificare, non sono band, che ne so, de registrazione avvenute negli anni 80 o 90, comunque erano tutte band di una decina di anni fa. siamo totalmente in ritardo con il termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane e fino alle 21.30 che sono già passate. Oggi giovedì 15 febbraio 2024, i nostri contatti proprio li dico velocissimo: zardinsmagnetics.radio.noblogs.org è dove potete ascoltare questa trasmissione e quella delle scorse settimane. Potete scriverci alla casella di posta elettronica liberetutti@autistica.org oppure in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione è condotta, insomma, va avanti grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste. Ciao, a giovedì prossimo. E non mettiamo neanche il brano che avevamo preparato di un vinile. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.